Parte seconda. I giardini di Accademo. Libro 1. La statuetta della libertà. Sollevai gli occhi dall'ultimo foglio di papiro, la bocca secca, il cuore straziato per aver vissuto in poche ore gli avvenimenti principali di quegli ultimi 2 anni della mia vita. Fui pervasa dalla luce incrollabile degli occhi neri di Demos. Forse era solo una mia impressione, forse era il polverio rosso del tramonto che filtrava dall'entrata della caverna e che si rifletteva in quello strano modo nelle sue pupille. Ma Demos sembrava preoccupato. La sua faccia torva, severa, ne era lo specchio. Demos, non ho saltato una sola riga. Ci tenevo perché tu conoscessi tutto di me, anche i momenti più intimi della mia vita. Cercavo il suo sguardo sempre più fosco. Sono grato per aver diviso con me i tuoi ricordi, Assiotea. Era nervoso, ma è stata proprio questa lettura a farmi riflettere. E scuoteva il capo. Maledetti, Temisone non ti ha assegnata a me per caso? I suoi occhi presero a scrutare attorno a noi, negli angoli dove dormivano i nostri compagni. Rimetti a posto i tuoi scritti, usciamo di qui. Mi affrettai a sistemare i fogli di papiro nella cassettina alle mie spalle. Demos mi aiutò a rialzarmi. Barcollavo. Mi cinse un fianco, gli passai un braccio sulla spalla, uscimmo dalla grotta presidiata da 2 arcieri. Ci dirigemmo verso la capanna dove si distribuiva l'acqua e il cibo. Il cielo accoglieva i colori rossastri del tramonto. Non vuoi confidarti con me, Demos? No, maledizione, tu hai già tanti problemi. Cercava i miei occhi. Il suo braccio era pieno di forza e di tenerezza allo stesso tempo. Le tue battaglie sono come le mie. Penetrai nei suoi occhi, nel suo cuore. E non vuoi raccontarmele perché hai paura di mettere in pericolo la mia vita? No, Demos, noi due non usciremo vivi da questo posto, lo sappiamo bene. Mi appoggiai a un masso, guardando il mare in lontananza. Spirava il solito venticello, sibilava, era sempre presente in ogni momento, in ogni anfratto della collina. In quel momento Demos aveva negli occhi una luce umida. Già prima di incontrarti volevo vivere, nonostante tutto. Adesso, dopo aver ascoltato la storia della tua vita, io devo vivere e tirarti fuori da questo inferno, ma sarà molto difficile. E sfiorò la mia fronte con un dito. Potrebbero torturarti. Per questo, finché sarà possibile, non ti racconterò niente. Gettò uno sguardo in lontananza verso il mare. Ci hanno messi assieme per osservarci, per vedere quello che combinavamo. Finora dobbiamo averli delusi. Mi sentivo un po' meglio, forse potevo farcela camminare da sola, ma preferì appoggiarmi di nuovo a lui. Passammo vicino a uno degli enormi vasconi da cui veniva prelevata l'acqua per lavare i pezzi di minerali ridotti in piccole porzioni, prima di passare alla successiva fase dell'arrostimento. Per le scale di pietra salivano e scendevano gli schiavi con i grossi catini di rame sulle spalle. Avevano già cominciato ad accendere fiacco e le lucerne per il turno notturno. Assiotea, questo inferno ci strappa di dosso l'umanità. Mi hai letto la storia della tua vita e io niente, nessuna reazione, non un segno di pietà per quello che è passato, per la morte di tua madre. Cercò il mio sguardo, mentre nella sua voce si faceva strada un tono dolcissimo, accorato. Cosa bella deve essere poter conoscere la propria madre, e tu ne avevi una eccezionale. Maledetti, a te hanno strappato la madre, la verginità, ti hanno marchiata a fuoco, ti hanno incatenata senza che tu avessi mai fatto nulla di male. A me hanno strappato la libertà, l'umanità. Poco fa pensavo a Temisone, perché ti avessi assegnata proprio a me. Penso solo alle mie cose. Maledetti. Scuoteva la testa, avvolgendomi col suo sguardo violento. Demos, so quello che ti passa per la testa, sono come te. Gli ideali per cui combatto sono il mio primo pensiero. Per ora preferisco tenerti lontana dai miei, per il tuo bene. Mi strinse rabbiosamente a sé. Raggiungemmo la capanna e ritiriamo la nostra razione di cibo giornaliera e potemmo riempire d'acqua la borraccia che avevamo con noi. Ci sedemmo sopra un tronco di quercia lungo la strada del ritorno, di fronte ai forni dove c'erano altri schiavi alle prese con la separazione finale dell'argento e del piombo. La strada era fiancheggiata da soldati. C'erano arcieri dappertutto, come non si era mai visto, e cani grossi e feroci come leoni. Prendemmo a mangiare la nostra misera razione. Demos, ecco perché non ho mai quasi rivolto la parola in questi 5 mesi. E continuerò a farlo. La tua vita è preziosa, molto più della mia e di tutti quegli altri 20.000 disgraziati. E masticava con rabbia. Tu devi fuggire da qui. Devi scoprire l'arcano nascosto in quel libro. Il segreto c'è. E forse potremmo aiutarti anche noi. Anche tu pensi che potrebbe trattarsi di un'arma rivoluzionaria, vero, Demos? Mi sforzavo di masticare il pane, ma era troppo secco e rancido. Demos ci versò sopra un po' di acqua, attesi che si ammorbidisse. Maledizione, come farti uscire da questo inferno? E azzannò rabbiosamente il pezzetto di formaggio. Masticai un'oliva. Ad Atene gli stessi uomini che non vogliono la guerra stanno facendo di tutto perché questa miniera produca più argento possibile. È come se avessero già preparato un conflitto. Secondo me c'è un piano, oppure un accordo, un complotto politico, il cui scopo è la guerra. Forse hai ragione, Siotea. Questo spiegherebbe le altre migliaia di schiavi che sono arrivati qui, l'esercito di poveri bambini, le migliaia di arcieri in più, i branchi di molossi feroci che hanno portato. E le flautiste che giungeranno domani per scandire il ritmo dei tuoi colpi di martello. Pensa, Demos, non sarai più libero nemmeno di martellare con il ritmo della tua rabbia. E provai a farlo sorridere, ma non ci riuscì. Il suo viso era più cupo che mai. Demos, loro sanno quello che accadde tanti anni fa. Non commetteranno mai più quell'errore. Se il tuo progetto era di liberarci tutti per poi aiutare gli schiavi di tutta l'Attica a insorgere, credo che per adesso lo devi accantonare. Potrebbe accadere proprio l'opposto. Quelli che stanno là fuori devono venire a liberarci. I suoi occhi vomitavano fiamme. Demos ha paura che sia tutto inutile. Per ogni 2 o 3 schiavi c'è un arciere, ma un arciere può tener testa a 10-20 poveracci come noi, malnutriti, malati, malandati e soprattutto senza la possibilità di poterci radunare. Vedi come non ci permettono mai di stare assieme più di 4 o 5 per volta. E appena si accorgono di un piccolo assembramento, ci piombano addosso con i cani. No, è fuori dall'aureo che bisogna fare la rivoluzione. Là c'è più possibilità di riunirsi. È là che è possibile procurarsi delle armi. Là siamo in 300.000. Là fuori i cani possiamo addestrarli anche noi. E abbiamo qualche politico che sta dalla nostra parte. Mentre mi aiutava ad alzarmi, era teso, gli tremavano le labbra. Tutte le vicende che hai letto potrebbero essere opera di pura fantasia. Potrebbe essere tutto un piano per conquistarti la mia fiducia e farmi parlare. E tu potresti essere una spia al servizio di Eubulo o Demostene. Temisone sa che nessuna tortura al mondo potrebbe piegarmi. Non mi lasciava, mi stringeva la vita fra le sue mani possenti senza farmi male. E il marchio sul mio braccio sinistro? Facevo di tutto per vincere la mia emozione. Potrebbe far parte della scena teatrale. Non allentava la sua stretta. La posta in gioco è così alta che tutto è possibile. E allora non ti preoccupare. Domani mattina sarò io stessa a chiedere a Timisone di mettermi a lavorare con un altro. Ma non riuscivo a frenare il dolore che mi stava scoppiando in gola, negli occhi. Adesso lasciami andare. Demos, tuttavia, continuava a tenermi inchiodata con le sue mani. L'unica cosa che suona strano è la tua età. Sei troppo giovane per rendere la tua storia più verosimile. Quei maledetti avrebbero dovuto scegliere o una donna più matura o addirittura un maschio. La tua vera età, Siotea? Con più di 19 anni, l'11 ecatombeone. Oggi. E non riuscivo a frenare il maledetto pianto. Lasciami, Demos. Nessuno potrà mai darti la certezza che cerchi, tranne il tuo istinto. Era scosso da una tempesta di sentimenti. Proprio grazie al mio istinto sono riuscito ad arrivare vivo fino a 28 anni, ma la responsabilità che mi porto sulle spalle mi ha costretto a diffidare di tutto e tutti. Ormai piangevo senza freni. E io ti capisco, e per questo domani chiederò di separarmi da te. Tu faresti come me, vero, Siotea? La sua voce vibrava di dolore, ma la stretta delle sue mani continuava implacabile. Ficcai i miei occhi nei suoi. No! So leggere nel cuore delle persone io, almeno in quello di certe persone. No, non dubiterei mai di te. E piangevo per liberare tutto il grumo che si era accumulato. E non far caso alle lacrime. Potrebbero essere frutto del mio allenamento teatrale. Con il braccio sinistro cercavo inutilmente di asciugarmi il pianto sulle guance. La sua forza s'allentò. Portò alle labbra il mio braccio. Cercai di liberarmi, ma la dolcezza della sua bocca che baciava il mio marchio vinse ogni mia resistenza. Poi mi prese fra le braccia, baciandomi la fronte. È il tuo compleanno, eppure tu mi hai fatto il regalo. Mi hai raccontato la storia della tua vita e io ti ho ricambiato in questo modo. Sollevai il volto, porgendogli le mie labbra. Tremava tutto. Le sfiorò appena. Mi baciò invece le palpebre, poi si portò il mio capo sul cuore, farfugliando e bestemmiando, dicendomi che era la prima volta che piangeva nella sua vita. Tornai a cercare le sue labbra. Lui sfiorò le mie con dolcezza, poi le morse quasi, tempestandomi ancora gli occhi di baci. Non posso, Siotea. Il desiderio mi scoppierebbe dentro e mi farebbe a pezzi. Mi abbracciava con disperata tenerezza. Restammo così, avvinti, mentre la sera calava sull'inferno dell'Aurio, mentre gli arcieri scatenavano i molossi fra gli arbusti, a caccia dei poveri disgraziati che si erano attardati nel loro bisogno oppure a scambiarsi un po' d'amore. I cani abbaiarono tutta la notte, finché l'aurora prese a filtrare nella grotta. Demos e io ci alzammo dal nostro giaciglio e mettemmo il naso fuori. Il sole stava spuntando dietro l'isola, alitando dal mare vento e luce sulle colline dell'Aurio. A noi toccava il turno di giorno. Per una settimana avremmo visto quel sole pallido e basta. I due arcieri, posti all'entrata, gridarono ai molossi, ma le due belve continuarono ad abbaiare. I loro latrati però erano rivolti verso il sentiero che portava ai vasconi di lavaggio. Stavano giungendo dei cavalieri. Demos e io avevamo percorso pochi passi nella loro direzione quando l'uomo alla testa del drappello ci riconobbe. Con una mano fece segno di fermarci. Era Temisone. Dietro di lui due arcieri. Uno di loro portava con sé una ragazza. I miei occhi abbandonarono la mascella da leone di Temisone per precipitarsi sul bellissimo volto della ragazza dai capelli rossi. Mentre l'arciere l'afferrava alla vita, i suoi occhi azzurri scrutavano la nostra direzione per poi illuminarsi. Non appena le mani del possente soldato la lasciarono, prese a correre verso di me. Era tutto il suo viso a sorridere. Assiotea, rallegrati! L'astenia! L'astenia! Me la trovai tra le braccia, incredula. Mi scostò da lei, mi passò una mano sulla testa, mi afferrò il braccio sinistro. Scuoteva il capo fissando il mio marchio. Tornò ad abbracciarmi emozionata. L'astenia. Hanno detto che ci avrebbero assegnate delle flautiste per ritmare il nostro lavoro. Tu non puoi restare qui. Fuggi! Non accettare per nulla al mondo! Nascosi il mio viso sul suo collo, nei suoi capelli vaporosi, profumati, legati a coda di cavallo. Fu il vocione di Temisona a separarci. Avrete tutto il tempo fino ad Atene per le vostre smancerie, e scoppiò in una risata volgare. Volò giù dal cavallo con un'agilità incredibile per una figura possente come la sua. Il mio cuore aveva preso a battere forte. Continuavo a non capire. Assiotea, tu devi avere forti raccomandazioni, persino tra gli dèi. Così dicendo, dalla borsa che portava a tracolla, estrasse un foglio di papiro. Ecco il tuo lasciapassare. Assiotea, figlia di Piramo di Flionte, dietro richiesta del cittadino Focione e dietro il pagamento di un talento. Sgranò gli occhi sanguigni. E dietro il pagamento di 6.000 dracme. Sei stata riscattata. Da oggi sei una donna libera. Puoi andartene dove ti pare. Letto, firmato e approvato dal Consiglio dei Magistrati. E mi porse il papiro. Ero scossa dall'emozione, tremavo felice, ma non protesi il braccio per afferrare il rotolo della libertà. Girai il capo verso Demos, il suo sorriso era luminoso e disperato. Dovette intuire quello che mi succedeva e allora mi afferrò il braccio e forzò la mia mano, protendendola verso il papiro che Temisone mi porgeva. Ma opposi la mia forza testarda. Temisone, l'astenia. Ringraziate Focione, ma non posso andarmene senza di lui. Fissai Demos. Le labbra rosse di Lastenia si schiusero per la sorpresa. Timisone sgranò gli occhi, si grattò il grosso naso con un gesto di fastidio. Gli dèi si sono cibati del tuo cervello, Assiotea? E perché non puoi abbandonare il nostro Demos? Di certo non per le sue scatenate prestazioni amorose. Prese a ridere così sguaiatamente da coinvolgere anche i due arcieri. Vidi i muscoli di Demos a tendersi verso la spada dell'arciere accanto a lui. Mi spostai, frapponendomi tra i due. Demos è il mio uomo. Io vivrò o morirò accanto a lui. Sentivo il respiro lontano del mare. Non so che farmene della libertà senza di lui. Temisone si rivolse bruscamente all'Astenia. Se dietro a questa faccenda non ci fosse gente come Focione, giuro che la metterei alla gogna la schiavetta. E adesso, bella flautista, che facciamo? Demos provò a dire qualcosa, ma gli affondai le dita nel braccio, come fossero artigli. Capì la mia determinazione, lo sentivo respirare affannosamente. L'Astenia mi fissava incredula. Tutto questo è accaduto in 2 anni, Assiotea. Poi si rivolse a Temisone. Se non riporto indietro questa ragazza, ci andrò di mezzo sicuramente. Ma tu non la passerai meglio di me, Temisone, stanne certo. 10 giorni fa è morto uno dei tuoi 10 padroni, il padre di Iperide, e il figlio ha ereditato tutto. E mi si è raccomandato per Assiotea, se non la riporto ad Atene. Tu non solo perdi il posto di lavoro, ma verrà qui personalmente e ti scannerà vivo. E ti assicuro che non scherza. L'omaccione scuoteva il capo, occhi minacciosi. Lo so, per Dio, ma liberare questo qui è una faccenda altrettanto delicata. Demos è stato marchiato a fuoco in fronte la prima volta che è fuggito ed è virato quando ci ha riprovato. Non è uno schiavo qualunque. E prese a squadrare il mio compagno con occhi inflessibili. L'Astenia palpeggiò la borsa che portava a tracolla. Timisone, se mi aiuti, una scappatoia forse possiamo trovarla. Come seconda missione ho quella di cercare una di quelle statuine di cui ti ho parlato. Il mio amico Eudosso è quasi certo che qui all'Aurio ne è stata trovata qualcuna. Emozionata stavo per intervenire quando Timisone, urlando, volle sapere cosa c'entravano le statuine. Se ne troviamo una, Eudosso mi ha dato un talento per avere sia la statuina che lo schiavo che l'ha trovata. E ficcò la mano nella borsa di cuoio, estraendone un papiro. Questo è il documento firmato per poterlo liberare. Controfirmato da Eubulo, Eschine, Demostene e Iperide. Temisone afferrò il foglio, lo aprì, lo lesse, confrontò le firme e i sigilli con l'altro papiro. Demos, conosci qualcuno che collezioni statuine in questo maledetto posto? Le mie dita straziavano il braccio di Demos per la gioia. Si volse un attimo a guardarmi mentre il sole scavalcava le pietre e gli arbusti davanti a noi, illuminandogli il volto. Era di nuovo completamente padrone di se stesso. L'umido alone negli occhi lo percepivo solo io. Sono proprio io, Temisone. Ne ho trovate alcune, quasi tutte rotte. Una sola è intera, ma l'ho regalata ad Assiotea. E fissò l'uomo con il suo sguardo penetrante. Temisone si decise a scendere da cavallo, mi venne vicino. Senti, bella, adesso tu prendi questa maledetta statuina, la dai alla tua amica flautista, prendi il tuo Demos e sparite dall'Aurio. Poi, papà Demos te ne darà un'altra, d'accordo? E se non lo fa, vieni da me e gli cavo le budella con queste mani. Zeus mi è testimone. Temisone, finalmente rinfrancato, saltò di nuovo sul cavallo. Vi aspetto al posto di guardia. Vado a preparare i documenti per dichiarare che non siete fuggiti. E rivolgendosi all'Astenia, e tu, mia bella flautista, preparati a depositare sul mio tavolo il talento. Non se ne parla, amico, urlò l'Astenia serissima. Va bene, allora ve ne andate senza statuina. Tutto quello che viene trovato qui è dello Stato. Io la consegnerò a chi detiene i diritti di sfruttamento e mezzo talento e chiudiamo la questione. La voce dell'Astenia era ferma. Temisone la fissò con odio, ma capì che oltre non poteva spingersi. Spronò il cavallo, gridando agli arcieri di accompagnarci da lui, dopo che avevamo sistemato le nostre cose e soprattutto dopo che avevamo consegnato la statuina all'Astenia. Il sole adesso esplodeva da ogni anfratto dell'Aurio. Le colline sembravano un formicaio con tante bocche fameliche che affioravano dall'inferno. La stenia, dopo aver gettato uno sguardo timido a Demos, cercò le mie braccia. Oh, la stenia, da dove sei spuntata? Dal mare, come il sole, a salvarci! E la stringevo a me, riempendomi del suo profumo. Demos ci lasciò sole, scomparendo all'interno della grotta. La stenia separò il suo volto dal mio. Vieni ancora da me, combatti tu con me. Fosti tu 2 anni fa a scrivere queste parole e lasciarmele impresse su quel foglio di papiro che ancora conservo. Guardò verso l'entrata della caverna, poi tutto il suo bellissimo volto si velò d'una maliziosa complicità. O nemmeno i ricordi ti sono più concessi. Mi sfiorò la fronte con le labbra, sotto lo sguardo incuriosito degli arcieri. Mi divincolai da lei. Tu mi hai fatto conoscere l'amore, la stenia. Non lo potrò dimenticare mai. Con la coda dell'occhio le accennai il marchio sul braccio. Ma da quel giorno sono passati 2 anni durissimi. Poi ti racconterò. Ti prego, dona la tua amicizia a Demos, la merita tutta. 2 giorni fa mi ha salvato la vita. Non trovavo le parole. È un uomo integro, una creatura di eccezionale pulizia morale. Qualunque cosa farò nella mia vita, mi piacerebbe farla accanto a lui. Mi inondava col suo sorriso, con la sua bellezza. Era lei a stringermi le mani. Assiotea, vai a preparare le tue cose, così ce ne andiamo da questo maledetto posto. Tardai ad abituarmi all'oscurità, sistemai tutti i fogli di papiro nella bisaccia e avvolsi la statuina in 2 bende. Eravamo circondati da una decina di persone che aspettavano di salutarci, di stringerci in un ultimo abbraccio. C'era anche Mefite, le tremavano le labbra. Stropicciava un braccio sulla tunica nervosamente, disperatamente. Cercai di stringerla al cuore. La bambina mi lasciò fare. Non pianse, non disse nulla, ma i suoi occhi colmi di puce e solitudine si conficcarono nello strazio che mi portavo dentro. Poco dopo, scortati dagli arcieri, ci muovemmo verso il corpo di guardia. Passammo davanti allo scheletro alla gogna. Finalmente la puzza della morte lo aveva liberato dalla sofferenza. Anche i suoi occhi fuori dalle orbite avevano cessato di implorare pietà. I corvi li avevano squarciati e divorati. Avvinghiata a un gigantesco arciere, la stenia cavalcava davanti a noi, mentre attraversavamo la brughiera, dirigendoci verso il piccolo porto dell'Aurio. Il soldato le gridava di abbracciarsi forte a lui. Negli ultimi giorni avevano avvistato un leone proprio da quelle parti. Demos invece si sentiva più tranquillo tenendomi dinanzi a lui fra le braccia. 4 arcieri ci facevano da scorta. Il nostro cavallo obbediva a Demos come se si fossero conosciuti da una vita. Montavamo a pelo. Ci godemmo il sole e la libertà per un lungo tratto, poi il sentiero roccioso finì. Il mare era sempre più vicino e gli arcieri presero a forzare un po' l'andatura. Demos fu costretto a stringermi con più forza. Lo hai detto solo per liberarmi, è così? La sua voce profonda era grave, come mai lo era stata. Accorgendosi che non mi decidevo a rispondere, continuò. Te ne sarò grato per tutta la vita, comunque. Mentre cavalcavamo in mezzo a mirti, corbezzoli e rami spinosi, la via era diventata più aspra. Prima di lasciarci, riprese Demos, vorrei chiederti un ultimo favore. Se mi puoi aiutare a prendere contatto con lo schiavo copista di Eubulo, con Oleno. Mi girai, cercai il suo volto. I suoi occhi duri guardavano lontano, mi sfuggivano. Lo dovetti chiamare più volte. Finalmente il suo sguardo spento si decise ad affrontare il mio. Demos, sei uno stupido. Possibile che tu non abbia capito? E cercai le sue labbra con la mia bocca, ma non ci riuscii per i sobbalzi del cavallo. Tu sei il mio unico uomo, Demos, anche se non mi vorrai. Ma io non ho bisogno delle tue parole. Io lo sento, io so che tu sei mio, lo so. Questa volta le mie labbra riuscirono a sfiorare le sue. I suoi occhi sorrisero, scrollò il capo, felice come me. Mi strinse a sé con un impeto che mi tolse il respiro. Mi vuoi, nonostante il fatto che io sia un mezzo uomo. Questa volta fui io a togliergli il respiro con un bacio. Il cavallo si fermò. Demos mi tempestava con la furia delle sue labbra, sugli occhi, sul collo. Il cavallo riprese a galoppare solo quando fu Demos a comandarglielo. Poco dopo ci fermammo a una sorgente per abbeverare gli animali e per mangiare qualcosa anche noi. Eravamo sotto la frescura di una fila di ipocastani. Gli arcieri avevano composto un gruppetto, sistemandosi a una ventina di passi da noi, chiacchierando tra di loro. L'astenia ci stava raccontando come erano andate le cose. Tutto per la statuina, davvero. Avevo partecipato a uno dei tanti banchetti dell'alta società di Atene e lì feci conoscenza con uno studioso delle attività goderecce, Pseusippo, il nipote del grande filosofo Platone. Divenni la sua etera. Adesso vivo nell'Accademia e là ho fatto amicizia con Eudosso di Cnido e il suo tuo benefattore, Demos. Sai come sono questi geni, tutti un po' strambi, con la testa fra le nuvole, e poi con i più svariati interessi. Un giorno gli raccontai la tua storia, Siotea. E sai che ti fa questo tale Eudosso? Tira fuori da una borsa una statuina. Affondò le bellissime mani nella sua borsa, ne estrasse la statuetta che mi aveva regalato Demos e si mise ad osservarla con la curiosità dipinta sul volto. Molto simile a questa. E continuò a contemplarla, la girò tutta notando la parte inferiore irregolare. Sì, proprio come questa. Sembra che sia stata strappata dalla base. La riavvolse nel panno, riponendola nella borsa. Fissava Demos incuriosita. E tu dove l'hai trovata? Nel Pangeo, in una grotta dove riposavo. L'astenia sembrava fissare un punto lontano oltre gli ipocastani. E qui, all'Aurio ne hai trovate altre, anche se rotte, comunque sempre dentro le miniere. Che strano. E poi tutte di questo materiale nero, pietra nera, spruzzata di polvere grigia. Che roccia sarà mai, Demos? Scuoteva il capo assieme alla chiama rossa. Non ne ho la più pallida idea. Mai visto niente di simile. È una roccia durissima, il ferro non ce la fa scalfirla. E allargò le braccia in segno di impotenza. Fui io allora a chiedere alla mia amica di continuare il racconto. Dunque, Eudosso mi diede l'incarico di trovare qualche altra statuetta simile alla sua, ma più ancora mi disse che gli interessava il luogo di provenienza. Aveva assolutamente bisogno di conoscere la persona che l'aveva trovata. Un mese dopo, all'Accademia, mi dette l'ordine firmato da quei potenti, anche se ancora non era riuscito a mettere assieme il talento d'argento. E così mi diede appuntamento per la settimana dopo all'Agorà, nella bottega dei libri. Ofione, il mio amico libraio, dimmi di lui, l'astenia, ti prego. La commozione doveva essere visibile sul mio volto. Ti ha accennato a Marpessa? No, amica mia. Il giorno Fione non era solo. Oltre a Eudosso, che mi consegnò il talento, c'era Focione. Il vecchio libraio e l'uomo politico stavano parlando di te, Assiotea. Stavano raccontando la vicenda dell'assemblea e di quando ti avevano condannata all'Aurio. E Focione mi disse che era riuscito a convincere Eubulo, Licurgo e altri a concederti la libertà. Raccontai che ero tua amica, mi offrii per venire a liberarti. E fu allora che intervenne Eudosso, chiedendomi di fare qualche tentativo per lui qui all'Aurio per le statuette. Mi strinse le mani, la gioia in volto. Sembra una favola, amica mia. Fissai Demos che partecipava attentamente alla conversazione. L'astenia, anche se io e Demos ora siamo liberi, abbiamo pur sempre bisogno di un tetto, di un lavoro. Che ci consigli? Afferrò la borsa di cuoio, ne cavò un sacchetto in cui c'erano tre altri contenitori. Ecco qui il mezzo talento rimasto, 1.000 dracme ciascuno. E ne porsi una a me e un'altra a Demos. Feci il gesto di rifiutare, ma non me lo permise. Ma siete matti! È un piccolo risarcimento per tutto quello che avete patito, per aiutarvi a ricominciare. E poi Demos finirà di guadagnarseli mettendosi a disposizione di Eudosso appena tornate ad Atene. Si sistemò la sua borsa. La prima cosa che dovrete fare è quella di coprire i vostri marchi a fuoco per potervi muovere liberamente. Tu, Assiotea, devi venire con me da Focione. Vuole vederti. Forse vuole chiederti di lavorare con lui. Demos sembrava lontano col pensiero. Aveva chiuso gli occhi, li riaprì, posò le sue mani sulle nostre bocche, intimandoci di tacere. Si girò. Uno degli arcieri stava dirigendosi verso di noi. Demos, con uno scatto fulmineo, aprì la cintura, lanciò un oggetto in alto mentre urlava all'arciere di fuggire. Ma l'animale piombò ugualmente sul soldato, sfiorandolo. L'arciere era caduto, colto di sorpresa. Demos era corso verso di lui con una rapidità impressionante. Gli aveva sfilato la spada dalla cintura e mentre il leone accennava a colpire con una zampa, Demos lo trafisse in mezzo agli occhi, atterrandolo con un solo colpo. Tutto era durato pochi attimi. Gli altri arcieri erano rimasti a bocca aperta. Vidi Demos che si richiudeva la cintura, poi sfilò prima la spada dalla fronte dell'animale, quindi un oggetto appuntito, sempre vicino agli occhi, simile a un coltello. Si girò, offrì la mano all'arciere. Il soldato bianco in volto si alzò tremante. Per Dio! Se non era per te, quel leone mi avrebbe staccato la testa con una zampata sola. Sei stato bravo tu a fermarti quel tanto che è bastato per salvarti. Gli riconsegnò la spada. Ti devo la vita, amico. Tuffò il suo volto ancora pallido nell'acqua della sorgente. I suoi compagni gli andarono accanto. Demos ci raggiunse, inginocchiandosi accanto a noi, ansimando. Sono stato un imprudente. Non ci si ferma tanto tempo vicino a una sorgente. Avevo dimenticato che queste colline sono ancora infestate dai leoni. Si pulì le mani insanguinate sull'erba. Fu l'astenia, con voce strozzata, a rivolgersi al mio compagno. L'arciere non ha capito. Tu hai lanciato una specie di coltello al leone, mentre la belva piombava sulla preda, e l'hai trafitto in fronte. Demos, quello che hai fatto con la spada dopo era solo spettacolo per gli dèi. E la bocca rossa restò spalancata per la sorpresa. Attesi che la mano di Demos abbandonasse la sua cintura, l'afferrai, tremavo, mentre i suoi occhi erano tornati impenetrabili. Il mio compagno si rivolse alla stenia con un sorriso a fior di labbra. Tu vai troppo a teatro. Poi ci invitò a rimetterci in piedi. Andiamocene, i leoni non cacciano mai da soli, e lo disse anche agli arcieri. Ci sbrigammo a riprendere il cammino verso il porto dell'Aurio, sotto un sole caldo, che ormai inondava tutto il rosso formicaio delle miniere.